Jethro Tull, Thick as Brick, Jethro Tull. Intervalleremo piano piano con due ore lo-fi di Salvini che elenca cose. Sulla Grecia, signori e signori, parleremo anche, a parte di mix fatti malissimo, del complotto della Conad, tutto annunciato da questo parroco. Abbiamo annunciato, desideriamo adesso rivolgere una preghiera per tutti i nostri defunti, per tutti coloro che sono morti anche a causa del Conad, ma soprattutto per coloro che nella solitudine ci hanno lasciato. Conad, persone oltre le cose. Perché i biscotti, i gelati, l'acqua, semplicità, trasparenza, onestà. Questo è un gioco, signori e signori, lavoro, questa credito, sera sviluppo, è tutto un gioco. Cancelliamo, aboliamo gli anziani, facciamo da soli e stiamo meglio e lavoriamo di più e controlliamo di più e siamo più sicuri e siamo più tranquilli. Più sbarchi, partenze, più problemi, più morti in Sicilia ma anche in Puglia, in Calabria, in Sardegna, dalla Calabria al Veneto, dal Lazio al Piemonte, passando per la Toscana, la Sardegna, la Sicilia. Oh, i fascisti, i nazisti, i razzisti, gli alieni, i marziani, i venusiani, i terrapiattisti, i Renzi, i Zingaretti, i Franceschini, i Gentiloni, di Orlando, della Boschi, di Lotti, vicino al popolo, vicino agli operai, vicino alle persone in difficoltà, vicino ai precari, disoccupati, scarsi integrati. È arrivato Jack Manz, buonasera. Ciao. Allora, abbiamo già piazzato gli ascoltatori con un mix di Salvini, in cui è impossibile non ridere. Con un mix di? Salvini lo-fi. Bello. È lui. È quello che a un certo punto dice Salvini. Può essere, è Salvini che elenca cose questo. Carino. Cercatelo. Come stai, Gio? Molto bene, tu? Bene. Oggi puntata tardi perché partiva la mia ragazza qua da Atene, quindi insomma ci stava a godersi un po' un ultimo pomeriggio assieme. Ottimo. E sì, un po' anche per questo in realtà sarà decisamente improvvisata, non ho fatto nessun post marchettaro, adesso ho scritto al mio amico per chiedergli se la collo oppure no, attenzione perché è online adesso, quindi a breve sapremo se saranno una ventina di minuti di sproloquio tra me e te. Ottimo. E poi in realtà ce ne andremo a cena. Ah, è vero. Oppure, anche se diventa... Oggi ci autocomplottiamo. Fantastico. Diventa... Oggi mi sa che ci autocomplottiamo, anche perché ho fatto pochi appunti per non dire nessuno. Quindi in realtà. Sì, appunto... ecco. Se i nostri ascoltatori vogliono sentire gli appunti, sono schema Ponzi, che potrebbe essere la risposta, tra l'altro, di Mirko, di un messaggio vocale che ci è arrivato da questo ascoltatore, che adesso se riusciamo ce lo sentiamo, che chiede com'è andata la Grecia agli europei del 2000 e chi lo sa, adesso sentiamo 4. Il messaggio vocale. Europei 2004 erano. 2004? Forse 2006? La no, 2006 mi dai che non dico noi, Joe, per Catraia. Ah, scusa. No, 2004, me li ero fatti raccontare un po' come erano andati e mi avevano detto che era stata abbastanza una bolgia indescrivibile. Vediamo se ci abbiamo il messaggio vocale. Ciao ragazzi, sono Mirko, grandissimi, vi seguiamo sempre. Volevo dire se vi ricordate quella volta in cui la Grecia ha vinto l'Europeo, se potete parlarne per ricordarlo. Grazie mille, un saluto da Campobasso. Da Campobasso, ladies and gentlemen. Campobasso, grande. Ma chi è questo? Possiamo battezzarlo ascoltatore numero 5, tipo? Sì, è Mirko da Campobasso, che ci segue sempre. E come vede, non ci ricordiamo neanche che anno l'ha vinto l'Europeo. Quindi no, adesso... allora io mi ricordo che era il 2004 e tra l'altro... Vabbè, tu sei sicuro, io proprio non lo so. Io sono sicuro e tra l'altro, se non sbaglio, furono degli europei molto bislacchi. Nel senso che, se non mi sbaglio, comunque alla finale fu tipo Portogallo-Grecia, tutte le più forti furono state cacciate a pedate nel culo, appunto, un po' dalla Grecia, un po' dal Portogallo, che si erano presi le loro belle rivincite. E a quanto mi aveva raccontato un mio amico, fu una bolgia per 2-3 giorni. Poi, insomma, qua non so se lo sai, ma appunto, anzi, sì, lo sai perché tu sei andato a un matrimonio greco, quindi hai bene in mente quanto siano contenuti i loro festeggiamenti. Sì, zero emozioni, zero scene. Sì, cioè, penso che tra un greco e un finlandese non ci passi veramente proprio un capello. Nulla. Un capello, esatto, un capello. Adesso proverò a molestare ancora Stefano, se zio cane si degna di... Vabbè, ma tu invitalo al Google Meet, poi vediamo, se entra lo sommergiamo di domande. Che tra l'altro hai detto che è in isolamento a Creta? Sì, tra l'altro stavo scrivendo... Può dire. Sì, si può dire. Lui in realtà lavora a Milano, l'ho conosciuto al Politecnico, mi ha introdotto poi a tutti un po' un gruppo di amici che adesso frequento qui, lavora da SNAM, e però in realtà l'hanno preso per fare delle robe tra SNAM e la Grecia, non ho mica capito, sta di fatto che lui si è perso nel labirinto del mio tavolo. Esatto, poi lui ha detto, sapete che c'è, la primavera sta arrivando, io sono in stage, quindi voi ve ne andate a fanculo e io pure, però a Creta. Ottimo, non male come idea. Allora, fammi mandare il link, un secondino, adesso provo a dire qualche cazzata. Sì, hai voglia, poi parleremo dopo lo schema Ponzi. Potremmo anche provare a chiamare Mirko, se ha voglia di rinfrescarci la memoria sull'europeo. Se no, questo è una più idea. Crisi del 2008 anche, crisi? Era stata accennata tra probabile Grecia parte 2. In realtà pensavo che gli dovremmo dedicare un po' tutta una bella puntata. Forse potrebbe diventare un filone quello degli italiani conosciuti per dei complotti, delle cose brutte che hanno fatto in giro per il mondo, come il buon vecchio Carlo Ponzi, perché lo vogliamo già dire adesso e dare qualche indizio, oppure ce lo teniamo per la prossima volta, il buon Carlo Ponzi? Vediamo. Sappiate solamente che il più grande schema per le truffe finanziarie porta il suo nome, che, detto in parole spicce, consiste semplicemente nel fatto che io vado da Gio e dico, ciao Gio, dammi 10 euro e ti garantisco il 10%. Poi vado da Acco e dico, bella Acco, io ti garantisco il 10%, con i soldi di Gio io pago l'interesse che ho promesso ad Acco, e così fino a una spirale che si evolve in miliardi. Oh yes, lo stesso vale per chi ottiene quel contratto per 10%, che può andare da qualcuno a sua volta a dire, dammi 10, io ti do 10 più il 10%. Eia. E così si crea una cascata di investitori. Stavo appunto riflettendo l'altro giorno come viva la finanza, che bello che abbiamo la finanza in questo mondo e che si possono creare un sacco di giochini con un sacco di miliardi di euro per truffare la gente. Senti, com'è che faccio a invitare qualcuno a questo meeting, che non sono poi così, sarò un ingegnere ma non sono così esperto. Vuoi darmi la mail? Sì, speriamo che non ci ascoltino in troppi, che non gli facciano delle truffe, degli scambi. anzi, te la mando in chat, ecco, forse è un attimo più rispettosa della privacy. Stavo per leggerla mentre la digitavo, poi ho detto oh no. Poi, signori e signori, in grande attesa, forse avremo una lettura di Cavafis dei Barbari da parte di Marta. E bello. Da parte di Cecilia, una lettura a piacere. La mail. Ecco, arrivata. E allora, contestualizzo. Ha vissuto a Milano, metà milanese, metà greco, ma l'ho conosciuto proprio. Abbiamo sentito poco, ripeticelo. È un casino della Grecia, quello relativo a se accettare, se uscire dall'euro oppure no, se il buon vecchio Yannis Varoufakis come ministro dell'economia e delle finanze se ne andò dal governo Tsipras, insomma, persino Beppe Grillo andò in piazza Sintagma a far cacciara, non so se te lo ricordi, dicendo ma sì, Belin qua sì, si lavora per la libertà, cazzo, si dice le cose come si deve, con quel suo meraviglioso accento genovese, e niente, l'ho conosciuto esattamente in quell'anno lì, quindi mi ha un po' aperto anche tutto un mondo su quello che era la Grecia, e mi sa che è arrivato. Eccoci con Stefano. Buongiorno. Ciao. Buonasera. Come state? Bene, tu? Sta a posto, dai. Dai, faccio vedere. Ma ci dobbiamo sentire per fare la radio, eh? Eh? Ci dobbiamo giusto sentire quando si fa la radio. Sì. Sempre per vie traverse. Ma a volte forse è meglio. Bene, bene, bene. Sono a Creta. Sti cazzi. Sì. È venuto a trovarmi Giorgino. Ti saluta. È venuto a trovarmi il mio amico Giorgio, te lo ricordi? L'hai conosciuto, mi sa? Certo, certo. Me lo ricordo come. Salutamelo. Allora, ragazzi, che ti parla oggi? Stasera volevamo chiederti tutto quello che sapevi dello schema Ponzi e del labirinto del Minotauro. Ah, stupendo, top. No, non è vero, non è vero. In realtà avevamo un ascoltatore che ci chiedeva degli europei del 2004, quindi intanto se ci puoi dare una testimonianza fresca di che cazzo fu Atene nel 2004, direi che potremmo far felice Mirko. Ah, voglia. E io ero piccolino, ovviamente, perché quanti anni avevo? Avevo tipo 11 anni. 12. Sì. Sì, esatto. Però sì, un po' di memoria ce l'ho. Tra l'altro ho fatto metà, l'avevo fatto metà dell'europeo. Ero in Grecia, l'altra metà ero a cosa, ero in Puglia, quindi sono uscito a festeggiare in paese in Puglia alla finale. Sì, si è perso la parte più bella. Sì, no vabbè, però anche la parte iniziale era comunque, c'era bel fomento, devo dire, ci stava. Senti, no, in realtà oggi l'altra volta abbiamo fatto tutto un po' una chiacchiera su un po' che cos'è, perlomeno per il mio punto di vista di straniero, che cos'è la Grecia e quali sono ad esempio delle cose che mi hanno sempre molto colpito, e due erano uscite un po' più forti, che sono degli estremi un po' dei greci, che sono delle persone, per come le vedo io, molto attaccate a degli ideali e poi incredibilmente attaccate anche a delle cose, mi verrebbe da dire futili, ma è brutto da dire futili, comunque delle cose piccoline, veramente molto molto specifiche, a cui sono veramente attaccati. C'è stato poi tutto un discorso sul buon vecchio Palagoulis, su quel gran libro di Oriana Fallaci, insomma c'è stata un po' tutta una chiacchiera sulla Grecia fino a Colonnelli, però io mi ricordo che ti ho conosciuto più o meno nel 2013-2014, quindi all'alba della grande crisi, e in realtà volevo chiederti appunto tipo la tua famiglia, come ve la siete vissuta, cosa è successo, cioè qual è stata ad esempio la cosa più forte che ti ricordi di quei momenti? Beh, la prima cosa, mio padre ha smesso di lavorare, quindi appena la crisi è scoppiata ha chiuso l'azienda, quindi anche questo l'ha influenzato un bel po', e anche mia madre che insegnava, anche lei ha smesso di lavorare, però devo dire lo vedevamo anche molto, molto di più tra gli amici, che tutti, cioè è cambiato di botto la vita per tutti quanti, nel senso che prima era molto più spensierata, tra i greci si parla proprio il periodo PASOK, quasi si fa un po' di umorismo, presente il partito PASOK, quello, il partito socialista, dove tutti a spendere e spandere, è un po' una situazione idilliaca, al poi che stavamo a cercare a scambiarsi gli spiccioli che ci avevano in tasca. E poi vabbè, le cose più drastiche, ho visto che tutti i miei amici che in realtà andavano in vacanza d'estate già a 16-17 anni ormai andavano tutti a lavorare, non c'era più, cioè andavano tutti a fare i camerieri o i cuochi, tutti se ne andavano, cioè meno gente andava a studiare all'estero, chi poteva andare a studiare all'estero e tutti gli altri andavano appunto a lavorare subito, cioè era abbastanza più intensa questa cosa qua. Poi molta più gente per strada, tantissimi barboni, le manifestazioni, poi tante manifestazioni. E il referendum io per è stata una cosa molto interessante, perché io al tempo un attimo al referendum per chi magari il referendum è stato anche particolare, perché appunto è stato un momento in cui c'è stata tanta speranza, un momento in cui tante persone ci hanno creduto, perché appunto era un nuovo partito che veniva al governo, tanta retorica che faceva sperare di ribellione appunto a delle misure che la gente non riusciva più a reggere, quindi appunto col culmine del referendum di ribellione non solo all'estero ma anche al sistema attuale, perché in realtà c'erano tutti i media e tutti col fatto che erano più o meno influenzati dai partiti che erano al tempo, che erano da anni al governo, erano fortemente a favore di accettare le misure in un certo senso della Troica, e addirittura il referendum era per il non accettare le misure della Troica, giusto? Esatto, sì, esatto. Cioè, per non fare tutto, come si chiama, i passaggi che devi fare con il Fondo Monetario Internazionale per i prestiti, piuttosto che... Corretto, ed era diciamo anche, cioè, al referendum ci sono arrivati una volta che loro sono andati a negoziare appunto con il Fondo Monetario Internazionale, e diciamo che era il culmine, è stato il referendum, perché loro sono tornati e hanno detto: ascoltate, noi non siamo riusciti a portare quello che avevamo promesso e quindi adesso lasciamo a voi. Sì, esatto. Non so se è un aneddoto da side journalism o che cosa, però ci pare che ci fu appunto nella contrattazione dei termini un momento in cui Tsipras disse allora credo che ci fosse la Lagarde al Fondo Monetario Internazionale, disse: che cazzo volete della mia vita, che mi tolga pure la cravatta, come dire, raga, ci state a spennare. No, quello assolutamente. Poi un'altra cosa che ha fatto molto, che ha influenzato molto, cioè io mi ricordo il primo momento in cui è arrivato il ministro appunto, anzi no, era proprio il ministro dell'economia olandese, e a fare il primo incontro appunto con Varoufakis, c'è Giorgio che se lo ricorda, quanto che una scena pazzesca, perché appunto arriva là e gli dice, aver parlato tra di loro, vanno a fare la conferenza stampa, tardati mezz'ora perché appunto non è arrivato in dunque, e c'è Varoufakis che gli dice: noi non siamo disponibili più a negoziare con il corpo che si chiama Troica. Cioè c'è Dijsselbloem che fa una smorfia, gli dice nell'orecchio, però gli hanno letto tutto il labiale, lo sai che tipo hai appena ucciso le negoziazioni per il tuo paese. C'è Varoufakis che risponde con sul microfono un wow, e va ad alzarsi a dargli la mano, e Dijsselbloem non mi ricordo se l'ha dato oppure l'ha evitato, però dopo si è sentito che ci sarebbero stati cazzi. Questo era proprio il primo impatto che ha avuto il governo Siriza nelle contrattazioni straniere. Beh, che immagino che, voglio dire, per la popolazione sia stata anche una cosa vista positivamente. Non c'è assolutamente senso. Perché appunto dopo un po' di anni, perché ormai erano già un po' di anni che la Grecia stava in crisi quando è arrivato il referendum, erano almeno 3-4 anni che era già partito questo e l'austerity, quindi le misure erano già sentite molto. E si è arrivato a un punto che la gente stava soffrendo molto, e quindi il Siris era visto appunto come il momento di speranza e di ribellione per cambiare le cose, e quindi questi piccoli momenti di vedere come appunto il tuo ministro dell'economia che combatte appunto invece di andare direttamente a accettare tutti i termini era assolutamente ben visto. La gente, vero, fa che si vedeva pestare indipendentemente adesso dalle opinioni politiche, non stiamo parlando di non è una questione di destra e sinistra, proprio visto positivamente come qualcuno che andava a contrattare per l'interesse migliori possibili. Esatto. Gio, hai qualche domanda? Ma sì, io pensavo a quale potesse essere il sentimento in generale nei confronti sia dell'Unione Europea e delle decisioni che ha preso, in particolare della Germania, e invece nei confronti del proprio governo e del cambio, capire su che piano erano paragonabili magari. sentimento verso l'estero e sentimento verso il proprio governo. Ok, sentimenti verso il proprio governo e verso l'Unione Europea, al tempo c'era, in un certo senso, allora, verso il proprio governo, verso il Siria c'era speranza, perché tu speravi che questi potessero tirare fuori qualcosa di migliore per tutti quanti, potessero combattere qualcosa di migliore. Verso l'Unione Europea c'era molta diffidenza, nel senso che erano coloro che un attimo tiravano le redini, e però fino a quel punto là era visto come, un, come qualcuno con cui contrattare, ok? Qualcuno che in un certo senso non è che vuole, cioè, poi cambia d'opinione opinione, questa è poi una cosa, più una questione di opinione politica, però a livello personale io li vedevo come qualcuno che sì, ti erano tirato fuori e vogliono il tuo bene, però nel frattempo hanno comunque i loro interessi dietro, perché tu sei in austerity, perché hanno tirato fuori le proprie banche, hanno fatto un bailout delle proprie banche straniere e in un certo senso stiamo pagando la quenta noi, quindi quindi comunque sicuramente non erano ben visti. Quello, il post referendum, però c'è stato anche un sentimento in più, che era quello di delusione verso il fatto che dici ok, se questa è la nostra ultima speranza e neanche la volontà del nostro proprio governo che va là e gli dice no, non ci stiamo, non viene rispettata, allora cioè, non possiamo fare niente, nel senso dobbiamo accettare la nostra sorte o almeno non possiamo uscirne con la politica. Cioè io personalmente da lì in poi ho smesso di, cioè mentre vi dico, nel referendum in sé io ero in Italia e non sono neanche riuscito ad andare a votare, cosciente di questo ho fatto tutto il possibile, ho speso giornate a parlare alle persone, andate a votare, fate questo, a dibattere con persone che di opinioni completamente opposte come politicamente, per convincerli di votare no, e quindi ero anche abbastanza, ero interessato alla politica greca. Da lì in poi io ormai vengo un anno, ho appena elezioni a votare in Grecia, però mi interesso davvero davvero poco, perché non è che mi interesso, però non ho grande speranza nella politica greca, nel senso che sento che non ha potere, perché se arrivi al dunque da doverti confrontare per i propri interessi e alla fine non hai nessun potere di farlo, allora dopo che l'Europa te l'ha messa in quel posto, il governo ha detto ciao, cosa facciamo? Cambiamo del tutto, cittadino giustamente, no, anche per. Ma soprattutto quando loro hanno chiesto appunto l'opinione, hanno detto ok, noi siamo andati a contrattare e non ce la facciamo, per favore popolo dateci il vostro ok che non ci state con queste misure qua, il popolo con una stragrande maggioranza dice ok, non ci stiamo, loro rivanno e l'Unione Europea dicono all'Unione Europea ascoltate, noi abbiamo questo referendum, il 65% della popolazione ci ha detto che non vogliono accettare queste misure qua, che vogliamo fa? L'Unione Europea gli dice a me non me ne frega niente del tuo referendum, o fai così oppure la porta è là, e quella ha un po' di casca nel braccio. Di mercato, viene da dire, no? Sì, beh, i simpatici sì. Principi di fratellanza tra stati membri, insomma. Sì. Stati membri dell'Unione Europea, così fratelli, così belli. Ci teniamo a rimarcare un'altra volta quanto noi amiamo il capitalismo all'interno di questa radio. Direi che ehi, io ho un credito nei tuoi confronti. Ah, io non riesco a pagarlo adesso. Ah, va bene, fallisci. Ah, e se no. Poi finito un tande anche se sporche, perché voglio un po' umiliarti. Sì, anche comunque sul referendum c'è un documentario pazzesco che hanno fatto proprio, anzi più che sul referendum era sulle sui periodi in cui Varoufakis è andato a contrattare a Bruxelles con i vari ministri dell'economia dell'Unione Europea, che si chiama Agora. Io non sono ancora riuscito a trovarlo, però è proprio un documentario, quindi dovrebbe essere davvero molto interessante vedere. Quindi se voi riuscite a trovare dove vederlo, fatemi sapere, assolutamente. Ho scontato ottime recensioni. Tra l'altro, perché vi dico questa cosa qua? Perché recentemente ero in Italia poco fa quando ho visto che stava andando in onda nel canale, alla Rai 2 greca, e dicevano che sarebbe stato pure trasmesso sul canale web della TV. Oh, sono entrato, non so se era apposta o per sbaglio, c'era la banda della Rai 2 greca di nuovo in loop per tutta la durata del documentario nel coso quello che doveva essere. Bene, cioè, se sei attaccato con un wifi italiano non puoi accedere alla televisione greca, cioè non te la fanno vedere. Ma è web, è una web TV greca. Ma non c'entra, perché tu non puoi pagare i diritti. È come io che ogni tanto cerco di vedermi la Coppa Italia da qua in Grecia. Non posso, ahimè. Perché la tua rete è inutile questa. No, infatti è una merda questo. Questo ti dimostra, Jack, quanto segue la TV greca quando sono in Italia. Ma invece io ho un'altra domanda che è sul... cioè non so poi quanto magari ne sai, mi auguro poco in realtà, adesso capisci perché. Però credo che proprio in seguito a quella crisi, molta, come dicevi, molta gente è finita per strada e ci sia stato anche un po' un boom dell'eroina, no? Sì, sì. E... oltre un boom di eroina c'è stato anche proprio un boom di droghe di pessima qualità, tanto che a un certo punto in Grecia, cioè c'è stato un documentario fatto, mi sembra dalla 7, su una, mm-hmm. su una droga che veniva chiamata la shisha, che sì. era una specie di crack fatto con gli acidi di batterie, mm-hmm. e con dei danni, faceva dei danni al corpo, la gente moriva davvero in 2-3 mesi dopo aver iniziato a somministrarsela. No, comunque c'era tantissima gente per strada, e droghe di pessima qualità, quindi la gente stava malissima e soprattutto non c'era nessun tipo di supporto. Tra l'altro, fun fact, in Grecia stanno adesso chiudendo il KTA, che è uno dei due grandi organismi di supporto ai tossicodipendenti, e lo stanno inglobando all'OKNA. Il problema di questo non è tanto l'inglobazione in sé, ma il fatto che il KTA è a differenza dell'OKNA è puramente a favore della riabilitazione clean, mentre l'OKNA, quindi fanno attività, aiutano queste persone a trovare lavoro, sì. supporto psicologico, mentre l'OKNA vai là e ti danno un po' di metadone, esatto, e ti mandano a casa. Quindi invito i nostri ascoltatori, usate solo droghe buone, perché sennò poi state male. Non l'ho detto io. Beh, il complotto per il traffico di droga di bassa qualità contro la possibilità di legalizzare alcune droghe, di renderle altre, diciamo, controllate da uno stato ideale utopico, che non ci marcerebbe sopra come fanno le mafie, potrebbe essere tutta una puntata, anche perché Italia e Grecia sono un po' sulla via della seta di diversi traffici. E considerando che, se non sbaglio, in Grecia comunque c'è una delle leggi più pesanti di tutta Europa se hai due canne. Sì, cioè, sono molto molto severi, sì, è vero. È molto pesante in Grecia se hai due canne. Mi ricordo quando ero arrivato la prima volta, aperto la Lonely Planet, comperata per i miei eventuali viaggi nelle isole greche, che... possesso di stupefacenti, la legge peggiore di tutta Europa, minchia. C'è il taglio di mani, come in Indonesia. Esatto. No, non fanno differenziazione tra le sostanze, uno, e due, non fanno differenziazione tra possesso e spaccio. Ce l'hai. E invece avrei un'altra domanda, poi su quelle che erano delle immagini che per me sono rimaste molto, molto impresse nella memoria, al netto di, come dicevo prima, di Beppe Grillo in Piazza Sintagma, e dice: beh, lì qui stanno votando per le cose. Al di là di questo, anche una delle immagini più forti per me era la coda della gente che andava a prelevare. Sì, sì. Questa fu una, secondo me, questa è un'immagine fortissima, perché dici: mo devo mettere i soldi sotto al materasso. Uno, quello, Jack, cioè la gente che andava a fare la fila appunto agli sportelli per prendere i soldi, c'era. Cioè, la cosa che mi divertiva di più a me era quanto i canali TV andavano là e facevano i reportage cercando di intervistare la gente, chiedendogli di dire: ma siete frustrati, se avete paura del vostro futuro, eccetera. e la gente risparmi. E la gente che si incazzava, che gli diceva: ci avete rotto le scatole, arrivate dei coglioni, e voi, colpa vostra che siamo qua e volete solo mettere paro alla gente. E quindi era anche un messaggio che metteva abbastanza speranza, nel senso che, e questo succede tuttora oggi, infatti, cioè è buffissimo, i media greci tutt'oggi vengono più volte mandati a fanculo dalla popolazione per strada, perché c'è un enorme distacco da quello che sono i media convenzionali e quello che la gente pensa. Ci sta, potrebbe essere in Italia invece l'esatto contrario, cioè mi sembra una TV molto terroristica e senza nessuno che dice molto. Bisogna farsi sentire anche per questo genere di cose, cazzo, non si può sempre ascoltare il terrorismo mediatico. No, è il motivo per cui forse facciamo questa radio. Sì, per informare nei dettagli le persone. Direi che esatto, una volta era per dare spunto, oggi mi sembra una puntata un po' più aulica, così. Sì, decisamente. Invece, però, mi dispiace sapere, non so, Giulia, hai altre domande? Ma io me ne stanno venendo perché insomma è sempre piacevole poter rompere i coglioni in maniera positiva. Quanto vuoi? Io ne ho un'altra, perché prima mi dicevi una roba che mi ha colpito, che era che adesso non segui più la politica greca. Però una roba che invece volevo proprio chiederti era se, cioè, io invece adesso trovandomi qui un po' me la sto a seguire, perché fatti di tutti i giorni immagino che qualcosina ti arrivi anche te per via di sguincio o di traverso, e è un po'... Ci tenevo anche a chiederti, Mitsotakis mi sembra un po' un Berlusconi, e questa citazione la faccio solo per Gio in realtà, e, però nel senso che ogni tanto mi viene, tutte le persone si lamentano e mi viene a chiedere, ma allora chi cazzo l'ha votato? E questa è la prima domanda. La seconda domanda è effettivamente così tanto, perché dà veramente l'impressione di essere una persona impreparata, fortemente impreparata, ma non solo, ha anche quella sgradevole... dà quella sgradevole impressione di essere non solo impreparata, ma anche di arrogarsi del potere che tutto sommato te lo potresti anche avere in quel posto. Per cui volevo capire se... Allora, Mitsotakis innanzitutto, è sempre difficile, penso, in tanti contesti riuscire a giustificare il perché il popolo a volte elegge un certo tipo di leader. Questo qua, cioè, adesso nella Grecia io posso giustificarlo col fatto che c'è molto nepotismo. Mitsotakis è comunque figlio di un ex presidente, e in Grecia c'è molto nepotismo a livello di leader che sono stati scelti. Cioè, negli ultimi 50 anni due famiglie hanno avuto 5 presidenti che avranno fatto sì e no 30 o 40 anni di mandato, tra i Papandreou e i Mitsotakis. E quindi ci sono anche i Karamanlis, quindi tre famiglie, quindi questo influenza molto, secondo me. Poi io mi unisco a te a dirti che la mia impressione anche secondo me è che è abbastanza impreparato, e il problema più grande è che è anche distaccato da quella che è la realtà greca, e molte volte mi sembra di vedere che non coglie il punto, cioè sembra che non coglie la realtà e quali sono i veri problemi che in questo momento andrebbero affrontati e che di cui importa al greco medio. E poi è sicuramente circondato, perché lui a mio avviso lui c'ha questo, non che io sia a favore di questo tipo di politica, però diciamo vorrebbe fare il neoliberale tra virgolette progressista, riformista, eccetera, però si porta dietro il suo partito, che comunque sono gente molto conservativa e devono andare a combattere per il nome della nuova Macedonia, per il diritto di andare in chiesa piuttosto che radunarsi, che aprire le aziende, e tutte cose che tu dici, contro gli omosessuali, tutte cose che tu dici in fin dei conti, ma quindi siete una destra progressista dei neoliberali, oppure siete un classico partito conservativo di destra? Di destra. Quello che, sì, esatto, è quella la difficoltà, che secondo me c'è anche un po' questo aspetto qua. E l'altra cosa che fa molta impressione è appunto che per il governo greco sembra che tutti i problemi siano un chiodo e che vanno risolti con un martello. Il martello sembra sempre essere la polizia. Cioè sì. Sembra che a ogni problema che loro trovano, la loro soluzione sia mandare un po' di poliziotti in antisommossa a manganellare a destra e manca e risolvono così. Sì. Ma quindi alla fine oggi leggeremo anche una poesia di Cavafis alla fine? Potrebbe essere, visto che ci sono Marta e Cecilia in studio. Hai visto? Ti faccio anche un regalino con una poesia di Cavafis. Cecilia ha deciso di leggere il pezzo a piacere, che si chiama Nulla, quindi esatto, oggi non leggerà. Stupendo, non vedo l'ora. Ci sta, ho detto che non vedo l'ora, però Marta invece si sta preparando sulla poesia aspettando i barbari, o arrivano i barbari, o i barbari, ancora non si sa come tradurre questo titolo così complicato. Tra quanto ce l'abbiamo pronta? Marta, quando sei pronta, secondo te? Adesso, improvvisi? Vai, improvvisazione. Vai. Vieni qua. Io mi muto così posso soffiarmi il naso della mia allergia. Aspettando i barbari, che aspettiamo, raccolti nella piazza? Oggi arrivano i barbari, perché mai tanta inerzia nel Senato? E perché i senatori siedono e non fan leggi? Oggi arrivano i barbari, che leggi devono fare i senatori? Quando verranno, le faranno i barbari. perché l'imperatore si è levato, così per tempo, e sta solenne in trono, alla porta maggiore, incoronato. Oggi arrivano i barbari. L'imperatore aspetta di ricevere il loro capo, e anzi, ha già disposto l'offerta di una pergamena. E là gli hanno scritto molti titoli ed epiteti, perché i nostri due consoli e pretori sono usciti stamani in toga rossa, perché i bracciali con tante ametiste, gli anelli con gli splendidi smeraldi luccicanti, perché brandire le preziose mazze, coi bei castelli tutti d'oro e argento. Oggi arrivano i barbari, e questa roba fa impressione ai barbari. Perché i valenti oratori non vengono a snocciolare i loro discorsi, come sempre? Oggi arrivano i barbari, sdegnano la retorica e le arringhe. Perché d'un tratto questo smarrimento ansioso? I volti come si sono fatti seri? Perché rapidamente strade e piazze si svuotano e ritornano tutti a casa perplessi? Si è fatta notte e i barbari non sono più venuti. Taluni sono giunti dai confini, hanno detto che di barbari non ce ne sono più. E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? Era una soluzione con la gente. Applausi, silenzio da horror vacui e applausi. In realtà gli applausi li ho mutati perché sono un fesso. Grazie mille, molto molto bella. Molto molto bella. Ringraziamo Marta. Grazie Marta. Prego da Marta. Grazie. Aspettami in legge. Grazie a Cecilia per il brano intitolato Nulla, che ha seguito subito dopo. Senti, ma cosa facciamo? Ci lasciamo sulle note di qualche bella canzone? Dai, io piazzerei un Jethro Tull, Thick as Brick, da un album, lo farei ripartire. A un certo punto l'ho messo anche mentre parlavo. E bellissimo così di sottofondo, spero che non abbia interferito. Soli pazzi dei Jethro Tull, direi. Il Manz vuole salutarci? Sì, io saluto Ste, saluto te Joe. Grazie mille Ste per averci dedicato quest'oretta, o quello che è stato. Quanto stai a Creta? Curiosità. Finché non mi dicono di tornare dal lavoro a Milano. Merda, ma senti, ma mi posso autoinvitare per fare una settimana di smart working? Sì, si può fare, ci sentiamo, ci organizziamo, ho voglia. Attenzione. Ce l'hai fatta, Jack. Top. Ho già aperto il calendario del mio del mio computer. No, scherzo. Va bene, ti ringrazio tantissimo, Steph. È stata una bellissima giornata. Grazie mille. Fammi sapere se passi da Atene, che ci vediamo. E niente. Ciao, Gio. Ciao, ciao belli. Ciao, grazie. Buona serata. Ciao, buona serata. Ciao. E ci salutiamo ancora con i Jethro Tull. Tra poco Marta ci legge una bella poesia. Andiamo avanti, di Alexandros Spalaguris. Vestiti di ferite, vecchie e nuove, e caricati con le ferite dei morti, andiamo avanti. Invece di trombe, lamenti di dolore. Invece di armi, ossa di amici uccisi. Nel sangue che battezza le bandiere, simboli della lotta, e sventolano al vento dell'ira. Nere ali di falchi neri, nascondono il sole. Indecifrabili grida, minacce e minacce nell'oscurità. E noi colpiamo l'oscurità, ossa di amici, le nostre armi. E alle minacce rispondono le ferite, sputando sangue, e andiamo avanti. We'll be right back. Giovanni, non mi piace il presepe, non mi piace il crocifisso, via per via, piazza per piazza, scuola per scuola, quartiere per quartiere, testa, bocca e cervello, i valori, il rispetto e la buona educazione alle ragazze e ai ragazzi, il servizio civile, il servizio militare.